286. Cignale fra due fuochi. Tenetelo in una marinata come quella della lepre numero 531 per 12 o 14 ore. Levato da questa, asciugatelo con un canovaccio e poi preparatelo nella seguente maniera. Collocate nel fondo di una cazzaruola 3 o 4 fette di lardone sottili come la carta, ponete il pezzo del cignale sopra alle medesime, conditelo con sale e pepe e aggiungete una cipolla intera, un mazzetto guarnito, un pezzetto di burro e se il cignale fosse 1 chilogrammo circa, 1/2 bicchiere di vino bianco. Distendete sul pezzo della carne altre 3 o 4 fette dello stesso lardone e copritelo con un foglio unto col burro che vi stia aderente. Cuocetelo con fuoco sotto e sopra e quando accenna a prosciugarsi, bagnatelo con brodo. Cotto che sia, passate il sugo senza spremerlo, digrassatelo e unitelo al cignale quando lo mandate in tavola.